Buonasera a tutti. Ivan Della Mea finiva i suoi concerti ormai da 10 anni con questa internazionale. Lui diceva sempre che questa canzone non poteva essere cantata in coro e infatti sceglieva sempre questa forma di canto solitario. È l'internazionale di Fortini. Noi invece abbiamo scelto per questo ricordo di Ivan oggi, 16 ottobre, il giorno del suo compleanno, ed è un giorno per noi importante perché in qualche modo si giocava sugli strani casi della vita. Il 16 di ottobre è il compleanno di Ivan, il 17 dell'Isabella, il 18 della Lia, tenevamo tutto insieme, perché era un modo di ricordarsi gli uni degli altri, insomma, era un bel modo. E era una specie di compleanno collettivo. Per questo ci siamo ritrovati qui all'Istituto Ernesto De Martino questi due giorni, 16 e 17, perché non è una data scelta a caso, avrebbe compiuto appunto 69 anni. E abbiamo scelto però per ricordarlo invece un coro, una sorta di rito collettivo in cui tutte le persone che saliranno su questo palco oggi e domani in qualche modo lo fanno e si sono messi al servizio dell'Istituto Ernesto De Martino e di questo progetto. Li ringrazio tutti, ringrazio quelli che sono venuti a parlare oggi pomeriggio, ringrazio gli artisti che saliranno su questo palco stasera e domani, ringrazio voi che siete qui, insomma. È un modo, credo, anche per dimostrare, credo, solidarietà, partecipazione e anche, insomma, che tutto sommato stiamo lavorando bene. Noi però abbiamo una necessità. L'internazionale era la canzone della fine dei concerti di Ivan. Noi abbiamo la necessità che questo collettivo sia chiaro, evidente. Per questo abbiamo l'esigenza di cominciare dall'inizio di questa storia, dall'inizio della storia del nuovo canzonario italiano, dall'inizio della storia dell'Istituto Ernesto De Martino. Grazie a tutti. Spero che sia una bella serata.